later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli non si capisce più un accidente, Kappa e Drago ripensano alla voce robotica. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Non so se hai notato, ma i messaggi in tedesco, questi qui, sono sempre più rari. Sì. Secondo me ci deve essere un significato in tutto questo. No, guarda, sono più rari perché gli uffici qua dentro sono deserti e anche il resto dell'edificio, no? L'ha detto anche il Paul. Sì, ma allora come fa ad andare avanti la produzione dei polli, scusa? Questo è un vero mistero. Il mistero della fabbrica di polli. Cioè, Drago, tu adesso te ne esci col... mistero della fabbrica di polli. Dopo tutto questo tempo, ma Drago, ma qui è sempre esistito fin dal primo momento. Il mistero della fabbrica di polli. Se la fabbrica va avanti da sola, vuol dire che abbiamo superato la fase post-fordista del lavoro. Beh, certo che bella fase post-fordista. Eh sì, l'industria dei polli è così collaudata e perfezionata che non ha più bisogno di qualcuno che controlli. Basta accenderla la macchina e si mette a camminare in modo autonomo. Basta la scintilla iniziale, come il mondo nella Bibbia. Fiat Lux. Punto, Fiat. Fiat. La fabbrica si autoalimenta e si autoregola. È affascinante tutto questo. È come se la fabbrica di polli fosse un organismo. Sì, vabbè, ma che tipo di organismo, capo? No, Drago, un organismo. Capito? Più devi lasciarti prendere un po' di più da questo organismo. Sì, ma un organismo di questo genere, che tipo di organismo è? Un organismo intelligente? Perché... no, un organismo stupido, anzi stupidissimo. Vabbè, ma allora Kappa, scusami, che cosa c'è di affascinante in un organismo stupido? Anche gli organismi stupidi, come il lombrico cieco, possono essere affascinanti. L'ottusità, la rigidità e la mancanza di sense of humor sono o non sono virtù come le altre? Secondo noi sì, e per provartelo ti invitiamo a trascorrere qualche ora con Costantino del Grande Fratello. Un organismo completamente stupido, ma dannatamente affascinante. Costantino del Grande Fratello. Ti sembra uno che va a citofonare? Costantino del Grande Fratello. Marico, mano, Gianna, trucca a me. Fammi le zinne della Hunzinge. Fammi la bocca della Basinge. Fammi il ciuffetto come Ratzinge. Che devo andare a parlare, a ballare, a frignare, a litigare, a scallettare. Dentro al pollaio de Marie, me vedi mamma sono qui, dentro al pollaio de Marie. Sai cosa, Kappa? Magari la fabbrica di polli è controllata da un computer centrale. Eh sì, adesso te ne esci col computer centrale, non ci il sono mistero persone. Della fabbrica di polli. Scusa, non ci sono persone, e può darsi che sia tutto elettronico. Dai, magari ci sono più computer in rete con il controllo di un pollo informatico, no? Il pollo informatico. Ah, dove l'ho messo? Allora, il database dei polli decapitati. Allora, prima era sulla chiavetta, poi l'ho trasferito sull'hard disk, firewall, quello esterno, per dopo ritrasferirlo in... ah sì, ho fatto l'upload in internet e mi ricordo che l'avevo visto online. Aspetta, adesso controllo. And now, keyboard. La fabbrica di polli. Allora, Tarek, l'informatica, la cibernetica e l'elettronica nella musica tedesca degli anni 70. Ecco, questo è il tema della lezione di oggi. Sei pronto a passare dal krautrock sognante di Klaus Schulze alle cavalcate marziali dei Kraftwerk? Kraftwerk? Kraftwerk potete dire? Sì! Ma no, non Kraftwerk! Kraftwerk! Lo so che è difficile da dire, però è importante saperlo dire, Kraftwerk. Ecco, allora, segna. Düsseldorf, Klingklang, Ralph von Florian, Germania Ovest, dopoguerra, capelli corti, sguardo dritto verso un punto preciso, il Merlin. Questi sono tutti gli elementi estetici, no? Capito? E poi c'è il suono. Che poi il suono è tutto, nella musica di Kraftwerk, Il suono elettronico, il battito robotico, il ritmo cadenzato della Mitteleuropa del domani. È presente Trans-Europa Express, Tarek, No. Ah sì, quella col treno a vapore, no? La conosci, no? No. Ah beh, però del 77, tu sei troppo giovane. Allora Tour de France, La conosci Tour de France, no? No. E allora cosa conosci di Kraftwerk? Scusa. Lineare Versterco. Ma no, ma non è di Kraftwerk quella, è di Luca Gemma. Però è bella lo stesso, Di Lineare Versterco. Das ist keine Werbung. Das ist eine Verstellung. Alle Händchen ähnliche Bewegung. Durch die Elektrizitätsleitung. Lineare Verstärkung. Però qualcuno deve pur farlo partire questo messaggio in tedesco. No, nessuno, K, qui non c'è nessuno. E per far partire un messaggio basta un timer. Ma se nessuno lo fa partire ci sarà qualcuno che lo ascolta almeno. I polli, K, te lo dico fin dall'inizio. Questi sono messaggi motivazionali per i polli, per prepararli meglio alla morte. Sono messaggi per quelli che vengono uccisi con la scarica elettrica, no? È la spiegazione tecnica di quello che gli succederà. In tedesco. Sì, di lineare Verstärkung, l'alimentazione lineare vi fulminerà in un batter d'occhio, cose così. Così arrivano preparati all'appuntamento con la morte, no? Credo che facciano la stessa cosa anche in America, in certi stati. Forse hai ragione, sai, perché questa è una pista. È una pista, sì. Questi messaggi sono riferiti alla scossa elettrica che uccide i polli. Bene. Bene cosa? Bene, bene che abbiamo cominciato a inserire il primo tassello nel mosaico. Ah, se dice così mi commuovo, comandante K. E perché mai, tenente Drago? Perché vuol dire che lei ci tiene a uscire di qui. Ma certo, tenente Drago, ne aveva forse dubitato. Sì, comandante K. E quando? Quando ho sentito che prometteva a una faraona di passare il resto della vita con lei. Intende quella faraona? Sì, comandante K. Le stavo mentendo. Lei non mente mai, comandante. Ma alle faraone sì. Comandante K. Che cosa succederà adesso? Sarà più forte la promessa d'amore fatta alla faraona o il desiderio di uscire dalla lugubre fabbrica di polli? Lo scoprirete solo domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo tormentato allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Ladies and gentlemen, good night. Barnum.